Daniele. Daniele, mi senti? Prova! Daniele, mi senti? Sì, ti sento ma sei in basso. Sì, in mezzo al QRM. Guarda che adesso faccio la prova, aspetta. Ho aumentato il segnale, guarda un po'. Guarda un po'. Ho attaccato 747. Insomma, sì, tra il 4 e il 5. Sì, spugni in mezzo al QRM, ma ti sento, Prova a caricare un po', Daniele. Devi caricare, adesso. 20, 30, 50 watt. Prova a vedere. Buonasera. Ciao, ciao, lo sei da Daniele, da Itini? Sì che lo sento. C'è Gianni, prova a chiamarlo già. Daniele, lo senti da Gianni? Io ti ascolto, saltiamo 4 e mezzo. Allora, qua mi arriva a 5, ma non è forte di radio già. Quando ti arriva Gianni, comunque te lo ascolti, dai. Santiago 8 qua. Ma problemi di antenna sicuramente. No, problemi di zona, non di antenna. Problemi di zona, già. No, prima mi arrivava più forte. Mi arrivava più forte a me, Luca. Il primo periodo che è andato, mi arrivava più forte. E beh, l'antenna è la Jägermeister. La Jägermeister la chiama Claudio. L'antenna è buona già, non è... Cioè, cazzo del vento non funziona bene. Magari, qualche watt in più deve mettere sotto. Oh, copiato. E Marco, prova a chiamarlo tu a Daniele. Forse abbiamo parlato in due. Allora, Daniele arriva, modulato Santiago 8 qua, buonasera a tutti. E a me mi ascolti bene, Daniele? Ok, a Marco, vai Marco, vai a prova tu. Forse alludevo a me, ciao Daniele. Allora, sei 7 e mezzo, modulato 8 massimo, quasi 8, dai. Daniele, guarda adesso, che c'è quella macchina che ha abbassato, non me ne ero accorto. Tu qua sei arrivato a 7,5 e la radio è bassa però, sarà a 3. Ma quanti watt stai uscendo, Daniele? Quanto? Ci organizziamo, magari l'altra la solleviamo, la mettiamo là, dove è tu. Perché secondo me anche la zona, sembra strano. Perché se era l'antenna il problema non uscivi, Daniele. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia madre. Riprendi Marco un attimo, scusa. Ma di stazionaria quanto c'hai, Marco? Già mi hai capito, quanto c'è le stazionarie, non mi viene il nome. No, allora quello è Gianni, Daniele, quello è Gianni, io sono Marco. Che strano che non vi sentiate però. Caspita, Daniele, dopo tutto, cioè sono quello che lo ascolta meglio qua, anche di radio. Perché tu sei in alto, Marco, da Bruva, sei in alto, per quello magari in linea d'aria ti viene più vicino. Sì, è probabile che sia favorevole per la mia zona, per la mia antenna già. Eia, io dal computer sento voci e mi sono facciato vedere chi era. Quindi qua non è male, è discreto come arriva, se a Itiri. Io è che ho 4 watt, non credo che mi copri, a parte che c'è, siccome piove si forma quel QRM elettrico bestiale. Nonostante ciò l'ascolto bene. Lo copi? Beh, comunque, Daniele, secondo me per arrivare meglio un centinaio di watt, 100, 105, 200 watt, secondo me ci arrivi molto meglio. Magari la zona è un po' negativa per Sassari, perlomeno per noi, magari arrivi meglio, non so, ad Alghero, sicuramente. Allora, Claudio, mio. Lo senti Daniele? Io mi lo sento. Ciao Daniele. E tu io guardo, è Tullio. Già ci ti stai arrivando 8 e mezzo, quasi 9. Ciao, vabbè. Ciao a tutti, ciao Daniele. Sono entrato per dirti che stai arrivando, comunque siamo già sentiti telefonicamente. Ciao auguri. Ciao Claudio. Daniele, adesso meglio mi ascolti. Daniele, non lo senti a Gianni? Sì, cazzo, se non mi senti così, guai. Guai, vedi se mi ascolti. Cappala. E ha attaccato un altro apparecchio, prima ero con il Galaxy. Forse non è favorevole quella zona per me. Cavagala, va bene, dai. E magari la devi alzare di più da lei con l'antenna. Comunque sa QRM lui e le Game Master già QRM non ne prende, è silenziosa, vuol dire che è il maltempo che genera quel QRM. Signori, stacco, ritorno al computer, buona serata. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco. Non so Marco. Stazionare quanto ne è Daniele? Che torno hai messo? Luca! Un attimino, vai Daniele, che tu lo so che diventa? Maria, lo senti a Claudio? Ma senti che mi accade, una camera a pesca o un'antenna? Cazzo, cazzo, io, lo lascio guasso, guardato guasso. Prima di tutto, Maria, ci sentiamo per telefono, ciao, Maria. Ciao, Dani, va, ciao, Claudio. Pasciani stava dicendo che prima arrivavamo a molto meglio, boh. Non lo so, non ne ho idea. Quarantena, sollevala, sollevala. Infatti, bisogna sollevare la volante, ma un giorno mi ci organizziamo, facciamo un salto con Claudio, un sovrallo con Claudio, vediamo un po' cosa possiamo fare. Però secondo me se la metti dove hai detto tu, dove c'è quella antenna lì, con due staffe, anche tre staffe, secondo me va molto molto meglio. Luca, ma la rispettate le misure che, per piazzarla? Perché c'ha delle misure particolari da rispettare. Sì, l'ha segnata già. Rispettate. Ma io non accordava perché aveva il cavo ossidato già. Cioè non tanto il cavo ma la calza, proprio nera. La dorata che era nera. E non accordava, non andava. Allora gli ha messo 58, però secondo me è ancora bassa quell'antenna lì. Poi lui è in mezzo alle case, capito? Non è che... anzi, è già che è troppo che sta uscendo da lì. Poi non lo so, boh. Magari sollevandola di più, esce di più, non lo so. Bisogna provare, magari c'è qualche ostacolo davanti e sollevandola riesce a superarlo, capito? Lì c'è anche un fattore di coso, di montagne, di coso, e bisogna vedere. Lascia prenderti l'amplificatore, capito, Daniele? Capito, Daniele? Ha detto Claudio domani a passare a prenderti l'amplificatore. Vabbè, passa e ti do l'amplificatore, che così fai ammazzi un po' più le traffiche. Non mi sento a me, ma io non ho l'antenna, io sto andando con l'antenna di 10 metri. Vabbè, già capito comunque. Solo per passare e ti do l'amplificatore che conosci molto bene. Vorrei che già ti sento la stessa, ciao. Ha detto se vuoi passare a prenderti un amplificatore che conosci abbastanza bene di passare, boh, vedi un po' un giorno, quando ne hai voglia vai e te lo prendi. Va bene, ciao a tutti. Ciao. Ma adesso col K stai uscendo, Daniele? Sì, io con questo apparecchio qua ti ascolto meglio, però vabbè, questo qua è un apparecchio diverso, dai, c'ha più watt e tutto. Sì. Adesso è come la giornata a notte. Ma di più, non sai di fatto questa radio. Ma è sempre uguale, sembra strano, cazzo. Perché se avesse problemi già avrebbe avuto stazionarie, insomma. Non sarebbe uscito. È un punto brutto, mi dovrebbe abitare lui già. E fa detto tra me e me, ma cazzo fa uscire ad arrivare a Sassari? E se no sono a piazza dove c'è il ripetitore. Non sto radiando con l'antenna, Luca, non c'è più niente stazionare. Non sto radiando, sto vedendo ostacoli, troppo basso. Cazzo, 100 watt modulati e... Adesso c'ha ragione, caso stai radiando, no? Assolutamente. Ehi, Clara, un giorno, se ne hai voglia, ci facciamo un salto, così lo vediamo, dai. E io siamo sentiti per telefono con Daniela, io non ho l'antenna. Sto usando quelle 10 metri, non so manco se mi sentite bene a Sassari. Ma era ascolto bene, Clara. Non si fondo scala, come io, a vecchi tempi, ma ti ascolto benissimo. Io sto andando col capo lo stesso, non so se la radio è sempre la stessa, non so, però la topo di 10 metri. Per la banda laterale. Comunque Daniele, con l'antenna non sta irradiando, non sta irradiando, vedo ostacoli, capito? Quella è un'antenna un po' particolare, devo avere campo libero, non è come il vinto che c'è radiale, e anche se c'è radiale non dovrà avere niente davanti, quindi bisogna cambiare posizione. Ha detto Claudio, sotto non ti sente Claudio, ha detto Claudio, Daniele, che non stai irradiando bene, niente, ci vorrebbe, o la sposti, la metti dove, lì dove hai detto tu, che è più alta, perché lì dove è adesso è molto bassa, poi vediamo, dai, già siamo in oggi, però te ci facciamo un salto, un giorno, vediamo un po' cosa si può fare, tanto anche se lì, penso con quella posizione che adesso mette una mantofa o un'antenna o radiali, secondo me non cambia. Ma io i tiri da qua lo vedo, cioè a me almeno mi arriva a fondo scala, vabbè, mi manda materiale, ma qua arrivano troppo basso lui per essere i tiri, molto molto basso, quindi con l'antenna avrebbe qualcosa, c'è qualche ostacolo davanti che impedisce di radiare bene, perché non è piano di vista, capito, non è radiale, è una verticale un po' particolare, capito, quindi non fa, vabbè. Ci faremo un salto, ecco, con quegli altri telefono, la Daniele passa a prendersi il lineare che c'ho io, che intanto non lo uso, quello della RM Italy, vedi che già l'ho sentito bene dopo. Ehi, dai, un attimo ho portato il cane, riprendi Gianni, ci sei? Ehi, già ci sono, ma... Ehi, capace che magari alzandola, cambiando le posizioni, riesci a acquistare segnale, certamente. Vabbè, io vi saluto, ciao Gianni, Luca e Daniele, piacere aver ascoltato le prossime, ciao. Daniele, avanti. Dai, arrivo subito Gianni, riprendi con Daniele già che va a portare a te a fisciare. E anche io devo andare a portarla, che ore sono? Io è presto ancora, a quest'ora lo porti, io lo portare 8. E va bene, là, ciao Luca, ci sentiamo, dai. E qua tutto acceso, nel caso se volete entrare. Se no dopo passo al 23 a salutare Gio Maria, dai. Daniele, prova a passare un attimino, se ci sono, mi sa che sono già lì al 23, chiamare a ver se ti sentono. Aspetta, no, non c'è nessuno al 23. Chi c'è avanti? Oh già, sta piovendo.